Il problema di May è che non ha una visione chiara di cosa vuole. Alla fine l'Unione Europea ha imposto una soluzione sull'Inghilterra, una soluzione non voluta dal governo che ci costringe ad accettare più o meno tutte le regole dell'Unione Europea senza avere una influenza su quelle scelte. Quindi è una soluzione che non piace a nessuno in Inghilterra. C'è forse un terzo dei deputati che voteranno per questo accordo, nonostante tutto, solo per difendere il governo di May e di evitare una crisi totale del governo del nostro paese. Però forse un quarto dei deputati conservatori, poi anche gli unionisti nordirlandesi e anche il partito laborista stanno tutti contro. E lei non arriva a trovare un compromesso o dialogare con queste altre forze di opposizione. L'Unione Europea ha dato un secco no ad ulteriori negoziazioni, quindi la sua sola via d'uscita e di rimandare il processo. Oggi dicono che ci sarà questo voto il mese prossimo, secondo me è molto poco probabile che si terrà. Alla fine dovranno sospendere l'articolo 50, cioè sospendere l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, o ci sarà un nuovo governo, nuove elezioni, un nuovo referendum. Però adesso il problema è che nessuno vuole prendere la responsabilità per questo tipo di decisione, quindi abbiamo un momento di stallo e di rimando del processo di uscita. Per quanto riguarda il partito del Labour, quindi il partito di Jeremy Corbyn, la prima domanda è se da parte loro c'è una volontà invece, secondo te, di prendere, diciamo, le redini di questo processo. Più volte, soprattutto l'ala di Corbyn, ma in generale i laburisti, hanno chiesto che si tornasse a nuove elezioni proprio invece di rivotare sul referendum. Il problema del Partito Laborista è che la posizione del Partito Conservatore è così debole, è il processo così difficile che alla fine il Partito Laborista non vuole arrivare al governo proprio adesso. Stanno puntando su più mesi di stallo e poi la possibilità di provocare nuove elezioni, dopodiché la Brexit sarà già consumata, tipo fine marzo. Il problema di Corbyn è che, sebbene la stragrande maggioranza dei deputati laboristi non vogliono la Brexit, gli iscritti del partito non vogliono la Brexit, però forse un terzo dei votanti laboristi nel paese hanno votato per uscire e quindi non vuole pagare la base del partito o la sua base di votanti insistendo sull'opportunità di un nuovo referendum o cercando di frustrare la Brexit stessa. Quindi lui ha ambiguità strategica. In questo momento sta cercando di caricare tutta la responsabilità sul partito conservatore, però senza provocare la crisi finale del governo di May. In questo senso è indicativo che Corbyn ha presentato una mozione alla Casa dei Comuni, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Theresa May, ma non nei confronti del governo. È un tipo di censura del Presidente del Consiglio inglese, però non implica la possibilità di far cadere il governo, e mi sa che Corbyn vuole evitare lo scontro finale, anche sapendo che sarebbe molto difficile per Labour cambiare i termini o di cambiare il nostro accordo con lui. Quindi secondo te, insomma, diciamo, dicevi all'inizio, è improbabile anche l'ipotesi di un voto che si tenga effettivamente il 14 gennaio come ha annunciato oggi Theresa May. Qual è secondo te il modo in cui si uscirà, diciamo, da questa Brexit? Cioè, qual è l'ipotesi un po' più probabile, no? Dicevi, ne rimangono poche alla fine, che non si voti e ci sia la cosiddetta hard Brexit, che cada il governo oppure che si vada a un secondo referendum. Si vede che c'è sempre più pressione per un secondo referendum. May ha sempre rifiutato ogni possibilità di organizzare un secondo referendum, però alla fine, se lei non riesce a comporre una maggioranza parlamentare nella Casa dei Comuni, l'alternativa ovvia è di dare alla popolazione la responsabilità di risolvere il problema. Quindi si parla sempre di più del fatto che, tipo, nel gabinetto di May ci sono ministri che vogliono organizzare un secondo referendum in cui si voterebbe o l'accordo che May e lui hanno raggiunto o rimanere nell'Unione Europea. E dal punto di vista personale di May, penso che non ha altre carte da giocare, perché non ha la fiducia neanche dei deputati conservatori. L'accordo è visto molto male da chi ha votato la Brexit, però il fatto che la settimana scorsa il voto di sfiducia nei confronti di May dentro il partito non ha potuto imporre le sue dimissioni, fa sì che la sua posizione personale è diventata più stabile. Però dovrà trovare modo o di rimandare tutto il processo o di organizzare un nuovo referendum, perché nella logica parlamentare che abbiamo adesso non c'è una maggioranza e non c'è un accordo, non c'è una soluzione, una via di uscita che gode di una maggioranza.